Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. La nostra promessa è quella di raccontare attraverso fatti di cronaca italiani e del resto del mondo il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 748, parleremo di lontre che lottano per non estinguersi, di orsi in amore e dei loro guardoni, sì, abbiamo detto bene, guardoni, non guardiani, di delfini che manifestano e insorgono nei delfinari come riescono, come possono, ma parleremo anche di cinema con la rubrica di Emilio Maggio. Ci sarà spazio per una ricetta vegana, cruelty free e per tanta buona musica. Speriamo di avervi incuriosito. Stiamo parlando dei classici omini che si aggirano tra le macchine parcheggiate per guardare le coppiette. Quando parliamo di guardoni al parco, la notizia arriva dal Parco Nazionale d'Abruzzo, dove il sentiero F10 ha dovuto chiudere perché i curiosi disturbavano gli animali in amore. Gli orsi sono vittime dei curiosi e non sarebbero più liberi di vivere in tranquillità la loro stagione degli amori. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'ente che gestisce questa, che è una delle più importanti aree verdi tutelate, ha dovuto chiudere il sentiero che porta decine e decine di escursionisti a filmare gli orsi in amore. Con un'apposita ordinanza ha disposto la chiusura del sentiero F10 che sale in vetta al Monte Marsicano a 2245 metri, perché ha riscontrato che gruppi di persone si appostano ogni giorno, spesso accompagnate da guide, per poi pubblicare sui social, dopo poche ore, video di orsi che si incontrano nel periodo degli amori. L'ente ha anche raccolto testimonianze di chat tra frequentatori della zona, dove vengono condivise informazioni puntuali su orari e località in cui vedere gli orsi in accoppiamento. Molte persone, accompagnate e non, sono salite in quota anche prima dell'alba, contravvenendo al regolamento sulla fruizione turistica di queste aree. Crediamo che vedere tanti video di orsi, come quelli postati in questi giorni, sia sicuramente molto emozionante, recita una nota del parco. Non comprendiamo però come nessuno si preoccupi del fastidio, delle interferenze e del disturbo che viene arrecato a questi splendidi e unici animali selvatici. La chiusura del sentiero F10 resterà in vigore fino al 9 giugno, salvo esigenze di proroga per la migliore tutela degli orsi. Situazione completamente diversa e più tragica è quella che ha scosso una località del Trentino, dove è stato trovato morto un cucciolo di orso albino in una foresta sopra l'abitato di Garniga sul Monte Bondone. Dedichiamo questa puntata al piccolo orso albino. nostro rapporto con gli altri animali è evidentemente molto contraddittorio. Infatti, se a noi, cittadini che frequentiamo la società, sembra che davvero siano in corso cambiamenti epocali nel rapporto tra l'umano e il non umano, per la sensibilità, l'empatia in continua crescita, per l'attivismo animalista, per i rifugi, per le scelte vegan che sperimentiamo ogni giorno ovunque. Dall'altra parte però, cioè tra i nostri rappresentanti al governo, nelle istituzioni e nella politica, noi non vediamo assolutamente niente di tutto questo progresso in corso, anzi vediamo tratti di arretratezza quasi imbarazzanti e un insistere sul più triviale conservatorismo. A questa riflessione si arriva dopo aver letto due notizie di attualità che vi riportiamo. La prima è la seguente. Si tratta di un recente sondaggio della Eurispes che rivela che in quasi una casa su quattro in Italia c'è almeno un animale da compagnia e addirittura in crescita questo fenomeno del 5% rispetto al 2023. Poco più di 4 italiani su 10 accolgono un animale e poco più di 4 italiani su 10 che accolgono un animale possiedono un cane, il 41,8%, mentre 4 su 10 un gatto, 37,7%. I pet vengono soprattutto salvati dalla strada o scelti in un canile, in un gattile o simili. Ma in un caso su 4 si è trattato di un acquisto in negozio o in allevamento, mentre 1 su 5 è un regalo. Il 14% dei proprietari di un pet ha pensato di dare in affido il proprio animale a causa di difficoltà economiche, però dice di non averlo fatto, mentre il 7,1% ha confessato di aver dovuto prendere questa amara decisione. Ma c'è anche chi ha pensato di dare in affido il proprio animale a causa delle difficoltà nel gestirlo in termini di tempo o di incompatibilità con la sua famiglia, il 13%, ma di non aver poi proceduto in tal senso, mentre il 6,5% ha dovuto optare per l'affido ad altri. Per quanto riguarda invece i temi etici legati al mondo animale, gli italiani continuano a dire no alla vivisezione, 76%, alla caccia, 73%, alla produzione e all'uso di pellicce, 78%, e all'utilizzo degli animali nei circhi, 78%. Eppure, nonostante questa notizia, che sembra molto positiva perché dimostra che il popolo italiano è comunque veramente molto empatico nei confronti degli animali, c'è anche una notizia decisamente contrastante che ha a che fare con pratiche violente e criminali nei confronti di natura e animali. Si tratta del bracconaggio, una pratica terribile che è punita con pene irrisorie. Si riferisce soprattutto a questo un comunicato diffuso il 29 maggio da EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animale, una delle più importanti associazioni animaliste, che sostiene che sarebbero rimaste senza risposte nuove richieste che EMPA ha rivolto al ministro Nordio per un inasprimento delle sanzioni previste proprio per il reato di bracconaggio. L'articolo 727 bis del codice penale stabilisce infatti che chi uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto ma solo da 1 a 6 mesi o con l'ammenda che può arrivare a un massimo di 4.000 euro. Dunque spesso le pene in questo campo sono davvero irrisorie. Oltretutto, queste persone potrebbero farla franca se l'uccisione riguardasse una quantità trascurabile di tali esemplari, recita proprio questo il codice penale, e avesse un impatto trascurabile sullo stato di conservazione di questi animali. Ecco, quindi, è evidente che le norme in questione sono del tutto insufficienti a svolgere una reale funzione di deterrenza. E infatti i bracconieri continuano a uccidere con una presunzione di impunità e di onnipotenza che governi e maggioranze che si sono succedute negli anni hanno fatto ben poco per contrastare. cosa. EMPA poi sottolinea come questo preciso esecutivo blandisca categorie amiche di armieri e cacciatori invece di far rispettare le normative italiane ed europee per tutelare la biodiversità, e fa una lunga lista dell'atteggiamento governativo che secondo EMPA è ostile se non addirittura persecutorio nei confronti della fauna. In questa lista ci sono le norme per la caccia no limits approvate con la legge di bilancio, ci sono i pogrom anti-orsi e anti-lupi condotti in alcune regioni italiane e mai condannati dall'esecutivo, c'è la mancata impugnazione delle leggi ammazza lupi e ammazza orsi approvate a Bolzano e a Trento, c'è il blitz sul piombo nelle aree umide, un blitz per il quale l'Italia è sotto esame a Bruxelles, c'è il progetto di legge Bruzzone che, con una clamorosa violazione della Costituzione, vorrebbe autorizzare le regioni ad approvare per legge i calendari venatori, impedendo così alle associazioni di poterli impugnare davanti al TAR. C'è il decreto legge Agricoltura che indebolisce le attività di prevenzione del bracconaggio e c'è la creazione della filiera della carne di selvaggina. È in atto dunque, secondo EMPA, stiamo riferendo il loro comunicato stampa, una vera controriforma green che sta riportando il nostro paese indietro di un secolo. Stiamo cioè tornando a quella visione antiscientifica che considerava la biodiversità come un semplice fattore di produzione e che dunque andava sfruttata e depauperata fino a quando non fosse stata in grado di generare profitti. Quella visione oggi ci sta portando alla sesta estinzione di massa, fa ancora notare EMPA. Sarebbe quindi opportuno, conclude EMPA, parafrasando un autorevole ministro, chiedersi se gli uomini siano effettivamente senzienti. Al suddetto ministro la risposta potrebbe non piacere, poiché, considerando lo stato in cui stiamo riducendo la nostra stessa casa, qualche dubbio sulle nostre capacità senzienti sarebbe lecito nutrirlo. Il riferimento finale di EMPA è al ministro Lollobrigida, che ha affermato che l'umano sia l'unico essere senziente, invalidando secoli di progresso scientifico e di studi pubblicati che affermano il contrario. Gli animali non umani sono senzienti e avrebbero una coscienza, come affermato nel 2012 un illustrissimo gruppo di scienziati nella famosa dichiarazione di Cambridge sulla coscienza. Tale dichiarazione affermava che non solo gli umani, ma anche un numero significativo di animali, tra cui non solo i vertebrati, ma anche molti invertebrati, sono esseri coscienti. Non ci crederete, ma la notizia è che i delfini nei delfinari soffrono. Ci chiediamo come questa possa essere ancora considerata una notizia. Eppure, quando su TikTok e poi su tutti gli altri social è circolato in modo virale il video girato in un delfinario di Minsk, in Bielorussia, su un delfino saltato fuori dalla piscina che ha cominciato a contorcersi sul pavimento, ci sono stati commenti increduli, stupiti, allibiti, scandalizzati e sdegnati, perché si è capito che gli animali in cattività soffrono, che gli esercizi sono innaturali, ma soprattutto che i delfini hanno un legame sociale, perché mentre quel delfino si contorceva sul pavimento fuori dalla piscina, gli altri esemplari dentro la piscina sembravano angosciati dalla scena e rimanevano lì vicino con le teste protese verso il loro consimile che si dimenava a terra. Addirittura uno di loro nel video emette un suono acuto, quasi uno strillo, come se volesse attirare l'attenzione degli spettatori inermi chiedendo aiuto per il suo amico. Vorrete sapere come va a finire? I membri dello staff del delfinario si avvicinano con un asciugamano al mammifero, cercano di ributtarlo in piscina. Uno degli uomini finisce in piscina insieme al delfino, un altro si inchina davanti al pubblico che ha applaudito il salvataggio. Noi non possiamo affermare con certezza quale sia il motivo che ha spinto il delfino a saltare fuori dalla piscina, ma a noi ricorda molto un'azione di resistenza animale, cioè uno dei mille modi con i quali gli animali protestano e ci fanno capire che la loro condizione, quella alla quale li costringiamo, non è accettabile. Un portavoce di Dolphin Project, un'associazione benefica per il benessere degli animali, ha diffuso una nota facendo sapere che comportamenti anomali dei delfini, delle orche, dei beluga e di altri cetacei in cattività sono stati documentati innumerevoli volte. Questi animali saltano spesso fuori dalle vasche oppure sbattono la testa contro i muri, contro i cancelli o anche galleggiano letargicamente per periodi di tempo prolungati. Ditemi voi se questi non sono segnali di disagio e sono soltanto alcuni dei motivi per cui i delfini e gli altri mammiferi marini non dovrebbero vivere in acquari e parchi. Il Dolphin Project, così come l'associazione italiana Essere Animali e molte altre, si impegnano da anni a denunciare i problemi che questi animali affrontano quando vivono in cattività per cercare di anticipare la fine di questo terribile, inutile, stupido sfruttamento. No animals were harmed in the making of this film. Nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo film. Questo disclaimer, che quando andiamo al cinema vediamo apparire nei titoli di coda, è ormai famoso in tutto il mondo. Ma è davvero così? Davvero gli animali che vediamo nei film non sono stati maltrattati? In che modo vengono scelti? Chi li procura? Chi li addestra e soprattutto come? E poi, ha senso mandare un messaggio a favore degli animali utilizzando animali addestrati? A queste e a tante altre domande cerca di rispondere da mesi ormai una rubrica a puntate che ci è stata proposta dal filmologo di fiducia della trasmissione Emilio Maggio e che procede in ordine alfabetico. Oggi vi proponiamo il lemma N, N come nido, anzi come nest. Siamo arrivati alla lettera N e in questa puntata voglio parlare di un cortometraggio sorprendente per il suo rigore stilistico, l'idea cinema che si prefigge e soprattutto per come vengono usati, le virgolette qui sono d'obbligo, gli animali filmati. Il corto in questione si intitola Nest, il nido. La regia è firmata dall'islandese Linur Palmason. Ed è stato girato utilizzando l'unico punto di vista della macchina da presa piazzata davanti al tronco di un albero rinsecchito su cui verrà poi edificata una piccola casa prensile che diventerà il ludico rifugio dei tre giovanissimi figli del filmmaker islandese. Il film sembra essere strutturato su un'unica inquadratura, ma in realtà quello che vediamo è solo una sinossi del tempo che scorre attraverso un sapiente strategico uso di quello che viene chiamato decoupage cinematografico. Palmason è abilissimo infatti nel scegliere quelle inquadrature che segnano il passaggio delle stagioni e in questo modo montare una storia che ha tutte le caratteristiche di un piccolo racconto di formazione con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo narrativo. All'inizio vediamo solo un vecchio tronco abbandonato in campo lungo, ciò permette allo spettatore di focalizzare la sua attenzione sul suggestivo paesaggio con il tronco in posizione centrale ma non determinante. Quello che succede dopo è la trasformazione del tronco in qualcosa che agendo su un territorio di per sé inospitale, brullo, flagellato dal vento, dalla neve ma anche dalla luce diretta del sole, rende abitabile il piccolo spazio a disposizione. L'edificazione della palafitta trasforma forma, il territorio circostante in qualcosa che può essere vissuto ed esperito sia dagli umani sia dagli animali. Gli unici personaggi in campo sono i tre bambini e gli animali che si avvicinano al casotto allestito sulle spoglie di quello che una volta era un albero. La specificità umana, in questo caso la tecnologia che permette a Homo faber di trasformare la natura in qualcosa che ne garantisca la sopravvivenza, è un fuoricampo assoluto dove il mondo degli adulti è solo una eco lontana, mentre i bambini e gli animali condividono questo spazio come fonte di gioco, ozio e relazioni affettive. Tornando all'uso improprio degli animali, qui la macchina da presa è una vera e propria trappola fotografica di quelle usate dai documentaristi per cogliere gli animali selvatici nel proprio ambiente naturale. I cavalli selvaggi che pascolano placidamente lungo i bordi dell'inquadratura, l'anatra tenuta in grembo dalla figlia più grande del regista, i piccioni che scorrazzano ai piedi della palafitta, i bambini che gettano granaglie per gli uccellini ai piedi della casupola, i corvi gracchianti che si accovacciano sul tetto, si specchiano in qualche modo nella intraprendenza dei giovanissimi interpreti che inventano continuamente i giochi che il territorio mette loro a disposizione. Insomma, questo piccolo film, Homo Ludens, prende il sopravvento su Homo Faber. Il film è comunque pieno di sorprese narrative, non stanca mai, pur non avendo una vera e propria sceneggiatura. La narrazione ha dei veri e propri colpi di scena, come quando il più piccolo dei bambini ha un pericoloso incidente e cade dalla balconata. Balconata di quello che è diventato praticamente un vero e proprio rifugio. Un rifugio in grado di accogliere tre bambini nel periodo di massima creatività, così come gli animali che si avvicinano incuriositi. Un pupazzo di neve, una carriola, i fuochi d'artificio che si levano all'orizzonte nella notte di Capodanno, la fune e la scaletta per arrivare alla sommità della casupola sono ripresi con il dovuto rispetto che il regista mostra nei confronti degli animali, che semplicemente entrano nel campo dell'inquadratura, di giorno come di notte, con il sole, il cielo solcato dal bianco delle nuvole, così come con la neve e il gelo che flagella i duri inverni islandesi. Insomma, si può dire che in questo piccolo e fragilissimo film, gli animali, entrando nel campo dell'inquadratura di loro spontanea volontà, per una volta si sono impossessati del set e hanno dato vita a una bellissima storia, con tanto di happy end. Stiamo registrando questa trasmissione, è il 29 di maggio, giornata mondiale della lontra, la baffuta regina dei fiumi, che con lo sparuto numero di 1000 esemplari circa rischia ancora l'estinzione in Italia, ma che cerca di resistere per tornare a prosperare. E noi speriamo che questa straordinaria nuotatrice ce la faccia. Da parte nostra, quello che possiamo fare è dedicarle la ricetta vegan cruelty free del giorno. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta speciale per festeggiare la lontra, animale acquatico così raro e prezioso. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Alla regina dei fiumi dedichiamo una ricetta che vede come ingrediente principale un altro prezioso regalo di fiumi e laghi, ovvero la castagna d'acqua, nota come trapanatans o anche trigol, nel mantovano dove nasce appunto il risotto con i trigoi. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di riso tipo fialone nano, 20 castagne d'acqua, una cipolla bianca o scalogno, del brodo vegetale, 200 ml di vino bianco secco, un cucchiaio di lievito alimentare, noce moscata, prezzemolo tritato, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Fate bollire le castagne per circa 4 ore. Fatele intiepidire e togliete la parte esterna, quindi tritate grossolanamente la polpa. A parte sbucciate e tritate la cipolla, fatela scottare con poca acqua. E quando questa si sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e lasciate rosolare per qualche minuto.